21.03 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Oggi è 28 febbraio del 2018 e anche per oggi, per questo mercoledì, inizia prove tecniche di trasmissione da adesso sino alle 22.30 circa. Questa sera a 25 o'clock non potrà andare in onda e quindi vi dà appuntamento direttamente alla prossima settimana, per cui questo spazio sarà l'ultima trasmissione in diretta per oggi. 0649 1750 il contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming e per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Ondarossa@ondarossa.info per le comunicazioni mediante posta elettronica, e questo spazio ha una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder. In questa pagina, oltre che sul sito della radio stessa, domani uscirà la playlist e il podcast di questo programma. Salutiamo Alessandra, Maya dall'Argentina, Like Awake qui da Roma. E pian pianino dirò anche gli altri. Noi si va ad iniziare con una realtà emergente, credo proveniente dalle Marche, Emilia Romagna, insomma in quel versante lì, trattasi dei Tacet, un progetto sperimentale che nasce dalla volontà soprattutto di Francesco Zedda. E abbiamo qui il loro ultimo lavoro dal nome Perpetual. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare la prima parte della lunga Perpetual, la prima traccia delle quattro che va ad aprire questo lavoro. Un album che si dipana più o meno su atmosfere space e dark ambient con schizzi sperimentali posti qua e là, e ce lo ascoltiamo con molta curiosità. Perpetual, eccolo qua, Tacet. Ci siamo ascoltati la prima parte di questa lunga suite dal nome Perpetual. Appartenente a questo progetto italiano dal nome Tacet, Tacet e Tacet di Zed e Francesco, coadiuvato da Alberto Amagliani e Valentina Vindusca. È una particolare traccia la cui seconda parte sentiremo la prossima settimana. Già che questa traccia è stata registrata dal vivo sulle rive del Tevere, una sorta di installazione sonora, e quindi in uno scenario molto particolare, in una iniziativa dal nome Liquidi Volumi. E l'effetto, devo dire, è affascinante, tenendo anche conto e andando un po' col pensiero a immaginarsi, per chi non ci è andato, questa location assolutamente imperdibile. Cinque lavori all'attivo tra mini, cassette e album per questi Tacet, Tacet, Tacet. E in serie di Disorder invece in futuro ascolteremo Tonto, che invece è una anima più elettronica dello stesso Francesco Zedde, ma quella è un'altra storia. Salutiamo intanto Like a Wake qui da Roma, Nicola Locci, che salutiamo doppiamente perché è uno di quelli che ha aderito alla nostra campagna di crowdfunding, che ricordo è ancora in atto, è iniziata da circa 20 giorni, sta andando molto bene e è un'attività che facciamo per comprare un nuovo trasmettitore, perché il nostro ormai ha 20 anni e risente di questo tempo, e quindi è iniziata questa campagna di crowdfunding che si appoggia su produzioni dal basso. Nel sito della radio si entra e si clicca su un banner in alto e si può vedere la modalità per partecipare. Un ringraziamento ancora anche a Raffaele Pezzella, anche lui partecipante, e a Stefania di Berlino, da Berlino. Tutti loro hanno partecipato a questo crowdfunding. Sta andando intanto così in sospensione Attrition, un progetto storico che abbiamo visto in concerto qui a Roma venerdì scorso. Questo è uno dei primi lavori. Esattamente dell'84, dal nome Onslaught. Questo è Tones is Black, e dopo ci sarà First Onslaught. Un saluto anche a Massimo Mascheroni in arte Orz, progetto industrial italiano. Lo salutiamo e andiamo anche a menzionare un festival che si terrà a Milano il 3 marzo, si chiama Margini Sonori 2018, dove il buon Massimo è anche protagonista come musicista e come organizzatore. E lo dico anche perché lo stesso Francesco Zedde, testé sentito, parteciperà con un altro nome ancora, The Real Blast, questo nome è un po' bizzarro, insieme a Empty Chalice, Braco Dinene, Francesco Zago, Alchimia Nova, Enkil, La Metafisica e appunto Orz più Alice Bachmann. Spazio Ligera, Milano, 3 marzo, Margini Sonori 2018, ancora Attrition. Thank you. ancora Trishon, e si saluta anche Loredana, sempre qui da Roma. E ancora Like Awake, Alessandra, eccetera, eccetera. Eccolo qua, Trishon. Oh, Erano dunque gli Attrition con Martin Bowes, un vecchio lavoro di molti molti anni fa, che uscì per la Third Mind Records nel 1983. Il concerto invece al quale ho assistito venerdì scorso si dipanava su atmosfere più cariche, più affini all'EBM industriale di Claude VA e Dieform. Un buon live, devo dire. Noi andiamo avanti, adesso invece ci andiamo a gustare un John Balance, quindi John Balance dei Coil ovviamente, insieme a Black Sun Productions, nel primo lavoro che fecero insieme, il primo e l'ultimo, nel 2002, dal nome The Plastic Spider Thing. Anche questa una installazione sonora con questa splendida colonna musicale. Ci andiamo a ascoltare il quarto e il quinto movimento da questo Plastic Spider Thing. Fuck. Ancora questa rara ed eccezionale collaborazione tra Coil e Black Sun Productions, sempre da questo The Plastic Spider Thing. Salutiamo di nuovo Massimo Mascheroni da Milano e Giulia qui da Roma. Yeah. Inferno. Da ricordare dunque con molto piacere questa performance che ha visto uniti Coil e Black Sun Productions. L'impronta di Coil mi sembra abbastanza evidente, e anche poi nel futuro, dopo la scomparsa di John Balance, i Black Sun Productions chiaramente e ovviamente parzialmente hanno portato avanti il discorso interrotto dei Coil per quanto riguarda lo studio e la proposizione di questi suoni. The Plastic Spider Thing, dunque. Dunque salutiamo di nuovo Massimo Mascheroni, lo sentiremo lui con Ords la prossima settimana, anzi Odds per essere più precisi. Un progetto di Classio Catap, Old School Industrial, lui e insieme a Antonio Maglione. Li salutiamo, loro da Milano. Invece noi andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella, che abbracciamo idealmente, e con lui e tramite lui andiamo un po' a conoscere del materiale proveniente dai Balcani, il tutto grazie a una sua compilation dal nome Nespresso Sounds The Balkan Perspective, che fa il punto della situazione sull'ottima musica che viene dai Balcani, quindi i vari paesi che lo compongono, che compongono quella parte d'Europa. La scorsa settimana ci siamo scritti i Cadillac provenienti dalla Slovenia, questa sera cominciamo con l'ascoltarci Conjecture, e qui chiaramente chiedo aiuto a Raffaele per dirmi da dove provengono, e poi Morket. Questa è una traccia che si chiama semplicemente D, eccoli qua, Conjecture. Un saluto anche a Riccardo Martucci, lo ricordiamo come ottimo musicista in diaspora psichica, che abbiamo apprezzato qualche tempo fa, e chiaramente aspettiamo nuove uscite da parte di Riccardo. Noi intanto rimaniamo nei Balcani, intanto era Vasilis Angelopoulos il fautore del progetto precedente Conjecture, quindi di chiara origine greca. Andiamo oltre. Sempre Nesplit Sounds, dunque. Siamo andati oltre e siamo andati appunto da Morket. Questo è Ghost Territory. Abbiamo preso due estratti da questa compilation, abbastanza, come dire, ruvidi, meno legati alla tradizione, diciamo, ambient di molta produzione ideata da Raffaele Pezzella, e anche il bello, questa estrema variabilità di proposte sonore. Un saluto a Vasilis Angelopoulos che ci scrive in questo momento. Sentiamoci Morket. splendida traccia questa, Ghost Territory. Per quanto riguarda Morket, che nasconde in realtà Givgros Morket, anche lui di origine greca. Il tutto estratto da Balkan, An Express Sounds, The Balkan Perspective, l'ennesimo tributo alla scena sperimentale di Raffaele Pezzella, che salutiamo per la 40ª volta questa sera e abbracciamo di nuovo. Una compilation del 2018 che per appunto andremo a conoscere nelle prossime settimane, ancor meglio, questa scena balcanica che ci sta sorprendendo ogni giorno di più. Cambiamo suono e arriviamo a qualcosa di più noto e che appartiene all'ultimo lavoro dei Godflesh di Justin Broderick, un buon ritorno che porta il nome di Post Self. La formula è sempre quella, il noise con elementi punk che ha sempre caratterizzato i Godflesh. Questa è In Your Shadow e poi ci sarà The Infinite Hand.